Siamo cittadini del mondo. Però siamo nati in questa epoca. Dobbiamo girare. Vabbè. Ah, più. Sai che è quasi ora di andare a fare la pappa? Che facciamo? Si va, no? Lo so che è bello stare al sole. Venga, vamos. Dai, vieni. Vieni. So che stai bene. Poi dopo possiamo tornare un'altra volta, dai. Fai un bel salto. Vuoi scendere da solo? Ok, papà ti aspetta qua. Venga. No, ti sta bene qua. Andiamo, ci stanno aspettando a casa. No, io comincia ad andare, va bene? Papà non è molto contento di questo comportamento. Non è molto contento. Venga, venga. E me voy, no. Aspettando a casa, sai? C'è mamma, tua mamma. Ok, prendo il salto. Ne facciamo un bel salto? Vedete che tutto ti ho appoggiato papà, però non è ben fissato. Ma ora che si stacchi un'altra volta. Capito? Non si sa mai perché. Dimmi, dimmi. Che bella gente.